le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Chiusi per gran parte della mattinata il Colosseo e i siti archeologici romani per un'assemblea sindacale. Rabbia e spaesamento tra i turisti italiani e stranieri. La misura è colma, dice Franceschini. Primi arrivi di profughi in Slovenia, mentre la Croazia chiude le frontiere con la Serbia. Un migrante morto fulminato nel tunnel sotto la Manica. Una bimba siriana di 4 anni perde la vita in mare. La riforma costituzionale Renzi sembra aprire alla minoranza del Partito Democratico. Il sindaco di Verona Tosi a Radio 24 racconta un colloquio col Premier. Mi ha detto che è a favore dell'abolizione del Senato. Borse pesanti dopo la decisione della Federal Reserve di lasciare i tassi fermi. Milano perde oltre il 2%, attesa per l'apertura di Wall Street. Sospetto terrorista sul treno tra Amsterdam e Parigi. Evacuati i passeggeri, arrestato l'uomo. Gli artificieri stanno analizzando uno zaino. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati dunque ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto di Radio 24 a metà giornata su quello che accade in Italia e nel mondo. In apertura andiamo a Roma, dove, come sentivate nei titoli, un'assemblea dei lavoratori ha bloccato i cancelli del Colosseo e dei siti archeologici. Fino alle 11 di questa mattina, in diretta dal Colosseo, Nazareno Orlandi. Buongiorno Nazareno. Simone, buongiorno, buon pomeriggio a te. La prima notizia è questa: la situazione adesso sta tornando alla normalità, le file di fronte al Colosseo stanno via via diminuendo, il flusso devo dire che è piuttosto regolare e ordinato, questo alle 13, però file molto più lunghe ci sono state stamattina a partire dalle 8:30, il Colosseo è rimasto chiuso fino alle 11 per l'assemblea indetta dalle rappresentanze sindacali dei dipendenti della soprintendenza archeologica. Chiusi anche molti degli altri siti archeologici della capitale, tra cui il Foro, le terme di Diocleziano, gli scavi di Ostia Antica. C'è stata una grande delusione, grande spaesamento per migliaia di turisti, sia italiani che stranieri, soprattutto stranieri di tutto il mondo. Si sentivano voci davvero dai 5 continenti, turisti arrivati per visitare il Colosseo. Molti di loro non sapevano della convocazione dell'assemblea, anzi quasi nessuno lo sapeva. C'erano dei cartelli che informavano i visitatori, però i cartelli erano affissi a ridosso dei cancelli del Colosseo e quindi non all'inizio della fila, dunque in tanti hanno atteso per ore sotto il sole tiepido della capitale. Un disagio del genere, va ricordato, era già successo a giugno per un'altra assemblea dei lavoratori. Tra le voci che abbiamo raccolto c'è quella di un turista tedesco, lo sentiamo. My impression is it's a little bit, was a little bit today in the morning I arrived, so completely that the union has... Funzionario, mi sono messo in fila alle 10:30, sto aspettando da più di un'ora e sono abbastanza deluso. Queste, Simone, sono state le parole del turista tedesco. E ci spieghi, Nazareno, perché protestano e perché hanno convocato questa assemblea i lavoratori dei siti archeologici romani? 3 punti, molto rapidamente. Le ragioni principali sono il mancato pagamento delle indennità di turnazione. Secondo quanto riferiscono i lavoratori, che poi sono i custodi del Colosseo, non sono state pagate nemmeno le prestazioni per le aperture straordinarie del 2014 e del 2015, fino a 3.500 euro. E tra i motivi della protesta c'è anche la mancata apertura di una trattativa per il rinnovo del contratto. Queste le motivazioni principali della protesta. Ti ringrazio. Grazie a Nazareno Orlandi in diretta dal Colosseo, dove, come avete sentito, i cancelli sono stati riaperti. È intervenuto anche il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, che dice in un comunicato che la misura è colma e che stamattina ha discusso col presidente del Consiglio Matteo Renzi. In Consiglio dei Ministri arriverà una proposta per inserire musei e luoghi della cultura tra i servizi pubblici essenziali, quindi soggetti alle stesse regole che ci sono per esempio per il trasporto pubblico in genere, per il trasporto pubblico locale. Ne parleremo anche più avanti col presidente dell'autorità di garanzia sugli scioperi, Alesse, perché era stato proprio lui a lanciare questa proposta. Passiamo adesso alla situazione dei profughi. Anche la Croazia ha chiuso il suo confine con la Serbia dopo il massiccio afflusso delle ultime ore, da quando cioè l'Ungheria ha chiuso il suo di confine con la Serbia, e anche oggi si segnalano vittime. Un punto con Maria Luisa Pezzali. Maria Luisa. Buongiorno Simone, un saluto. saluto agli ascoltatori. Sì, iniziamo proprio da qui, purtroppo, dalle nuove vittime di questa emergenza. A pochi giorni di distanza dal piccolo Aylan, una bambina siriana di 4 anni è morta nel naufragio di un barcone al largo della costa di Cesme, nella provincia occidentale turca di Smirne. E poi dalla Francia si è avuta notizia di un migrante morto fulminato nella parte francese dell'Eurotunnel, il tunnel sotto la Manica. 20 anni, nazionalità siriana, aveva tentato di salire su una delle navette che trasportano le merci. Passiamo alla pressione sul fronte balcanico della crisi, con le due decisioni di oggi, una della Croazia, l'altra dell'Ungheria, all'insegna del pugno di ferro. Il governo di Zagabria ha chiuso nella notte 7 degli 8 valichi con la Serbia, ha messo l'esercito in stato di allerta, sospesa anche la circolazione dei treni fra Belgrado e Zagabria. Secondo le autorità croate, nelle ultime 48 ore gli arrivi dalla Serbia hanno toccato quota 13.300. Però a questo riguardo c'è una notizia battuta proprio in questo momento dalle agenzie, una dichiarazione del premier croato: il confine non può essere sigillato, ha detto, tutta questa gente non la si può trattenere. Per ora non impediremo a nessuno di entrare in Croazia, ma neanche di uscire dal paese. Quindi questa è la situazione. Veniamo all'Ungheria, che ha esteso lo stato d'emergenza al confine con la Croazia, dove ha iniziato a costruire una nuova barriera dopo quella lungo il confine serbo. Lo ha annunciato il premier ungherese Orban. La nuova recinzione al confine ungherese-croato sarà lunga 41 chilometri e avrà la medesima funzione: impedire l'ingresso dei profughi nel paese. Per ora è tutto, Simone. E grazie Maria Luisa Pezzali per questi aggiornamenti. Nel frattempo ne stanno continuando ad arrivare, ve li daremo nel corso della trasmissione. C'è anche evidentemente un fronte politico oggi a parlare, la Germania, mentre vengono diffusi anche dei numeri importanti, soprattutto sui richiedenti asilo. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto partiamo dai dati che confermano il quadro dell'emergenza immigrazione in Europa. Secondo Eurostat, è boom di richieste di asilo da aprile a giugno di quest'anno, ben 213.000, 15% in più rispetto al primo trimestre del 2015 e l'85% in più rispetto al secondo trimestre del 2014. Ma rispetto a questi dati l'Europa continua a muoversi ancora in ordine sparso, proprio nel tentativo di trovare una voce unica per affrontare l'emergenza. È stato annunciato dal presidente Donald Tusk per mercoledì sera un vertice straordinario informale di capi di Stato e di Governo. In quell'occasione non si parlerà di quote di ridistribuzione dei migranti, ma del quadro più ampio del futuro di Schengen. E su questi temi proprio ieri c'è stato tra l'altro il bilaterale tra Renzi e Hollande. Il premier italiano è tornato a ricordare come l'Europa sia nata per abbattere muri, non per costruirne nuovi, parole condivise dal presidente francese, il quale ha sollecitato azioni concrete, altrimenti ha detto sarà la fine di Schengen. Martedì 22, invece, quindi il giorno prima del Consiglio europeo straordinario, ci sarà il vertice dei ministri degli interni per compiere un primo passo verso l'introduzione delle quote permanenti, con l'approvazione del pacchetto per la redistribuzione dei 120.000 richiedenti asilo da Italia, Grecia e Ungheria negli altri paesi dell'Unione, pacchetto che potrebbe essere votato con il ricorso alla maggioranza, un'arma questa per mettere a tacere di fatto il blocco dei paesi che si oppone. Il ministro degli esteri tedesco Steinmeier ha lanciato la proposta proprio in queste ore, perché ha detto non è ammissibile che Germania, Austria, Svezia e Italia portino da sole questo peso. I numeri per un voto in questo senso ci sono, anche se il ricorso alla maggioranza di fatto potrebbe spaccare l'Unione con relative conseguenze politiche. E con questo è tutto, a te Simone. Grazie Alessandra Schepisi. E come sapete Radio 24 sta facendo un viaggio ai confini dell'Europa. Siamo stati in Ungheria, siamo stati in Bulgaria, trovate i nostri reportage sul sito www.radio24.it. In questo momento siamo in Grecia, a Kos, dove c'è la nostra Valeria De Rosa. Grecia che tra l'altro domenica andrà al voto. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Simone, nuovi sbarchi anche questa notte a Kos, ormai non più di 200 persone per notte e nuove file ovviamente questa mattina per ottenere subito i documenti per poi partire alla volta di Atene. Questa mattina il sindaco ha ordinato lo sgombero delle tende dai giardini dove erano sistemate. qui a Kos manca un centro, uno spazio adibito proprio all'accoglienza dei profughi, sempre perché il sindaco ha negato questo spazio. Il risultato è che le tende questa mattina sono state spostate sulla banchina del porto e poi in spiaggia, e qui al momento ci sono 30 gradi. Stamattina, come ogni mattina, sul lungomare è arrivato un camioncino di una panetteria locale che distribuisce pane e dolci, e in fila ho incontrato Karman, che è fuggito dall'Iran. Ascoltiamolo. Where do you come from? I'm from Iran. And how long was your trip? My travel. Karman mi ha detto che il suo viaggio è stato lungo all'incirca 5 giorni, è stato un viaggio senza grosse difficoltà, ha pagato poco, diciamo abbastanza poco, perché lui è single, mi ha detto, non avendo famiglia, non avendo figli, mi hanno fatto pagare poco, e mi ha detto di non aver potuto rimanere in Turchia, di non aver voluto, perché come l'Iran è un paese musulmano dove chi non crede viene perseguitato come lui. Gli ho chiesto dove volesse andare e mi ha detto che non è importante il luogo, la destinazione in Europa, l'importante è che sia un paese libero. A portare tutte le mattine chili e chili di pane, veramente un furgoncino pieno, è Dionysios, sentiamolo. Dionysios Anitakis. And why do you do this every day? Come potete sentire, quest'uomo che ha più di 70 anni ed è anche, diciamo, provato da alcune malattie, mi ha detto di farlo perché anche lui è stato un migrante in Australia e per il primo mese che è stato là non aveva di che mangiare. Alcuni lo hanno fatto per lui, hanno fatto per lui quello che lui sta facendo per queste persone. E poi mi ha detto: Dio ci guarda, Dio guarda tutto quello che noi facciamo. Grazie Valeria De Rosa, con te torneremo a parlare più avanti e faremo anche un punto sulle elezioni greche che, come si diceva, si avvicinano, arrivano domenica. Questa mattina su un treno tra Amsterdam e Parigi è stato arrestato un sospetto terrorista. Dopo l'attentato del 21 agosto, l'allerta è alta sui treni e nelle stazioni ferroviarie d'Europa. Oggi a Rotterdam un uomo è stato arrestato dopo essere fuggito di fronte a due agenti e dopo aver cercato di barricarsi in una delle toilette del treno Thalys Amsterdam-Parigi. Sospeso il traffico sulla linea, il convoglio è stato fermato sul binario 3 della stazione di Rotterdam, completamente evacuato insieme alla metà dei binari a scopo precauzionale. Intervenute il test di cuoio, un negoziatore ha cercato di comunicare con l'uomo che si rifiutava di uscire dal bagno prima dell'irruzione e l'arresto avvenuti dopo 3 ore. Il sospetto, che dalle immagini sembra poco più di un ragazzo, non era armato a quanto si sa. Colpito da un attacco di iperventilazione, è stato ricoverato in un ospedale della città. A quanto si apprende, l'allarme era stato dato da un testimone che aveva detto che il sospetto aveva una bomba. Un portavoce della polizia olandese ha invece riferito ad un cronista che potrebbe trattarsi di qualcuno senza biglietto, di un soggetto in stato confusionale. Poco meno di un mese fa, su un treno Thalys in viaggio tra Amsterdam e Parigi, un 26enne di origine marocchina ha ferito 3 persone, tra cui 2 Marines americani, che riuscirono comunque a neutralizzarlo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo la decisione della Federal Reserve di ieri di lasciare invariati i tassi di interesse, oggi le borse stanno reagendo male. Il FTSE MIB cede il 2,03%, il FTSE All Share il 2%, Parigi il 2,25%, Francoforte il 2,5%. Dell'andamento dei mercati torneremo a parlare naturalmente come sempre nell'appuntamento alle 13.30 e vi ricordo che tra l'altro in America 24 il nostro Mario Platero oggi parlerà diffusamente della scelta della Federal Reserve avvenuta ieri. Un'altra notizia di economia battuta poco fa dalle agenzie: Silvano Cassano si è dimesso dalla carica di amministratore delegato di Alitalia. Lo si è appreso da un messaggio del presidente Luca Cordero di Montezemolo ai dipendenti. Le dimissioni, secondo quel che si è appreso, sono attribuibili a ragioni personali e non all'andamento dei conti che, da fonti vicine al CDA, sono in linea con i piani. Resta in primo piano in queste ore nella politica la riforma della Costituzione, che tra grandi proteste è arrivata in aula. Il punto di oggi con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Sarà un weekend di trattative all'interno del PD sulla riforma istituzionale in vista della direzione nazionale di lunedì prossimo. Non servono contese muscolari, dice Roberto Speranza della minoranza Dem, che chiede anche però di non tirare per la giacca il presidente del Senato Pietro Grasso. Se in direzione ci sarà un voto ne prenderemo atto, ma non può essere vincolante in materia costituzionale. Lo ha detto lo stesso Matteo Renzi, non ci può essere disciplina di partito sulla Costituzione. Il Premier è disposto a trattare su tutto, tranne che sull'articolo 2, il caposalto della riforma sul Senato non elettivo con doppia lettura conforme di Camera e Senato. C'è invece disponibilità sull'indicazione dei consiglieri senatori da parte dei cittadini, ma anche sulle funzioni del nuovo Senato e sulle elezioni di due giudici costituzionali. Ma c'è anche l'ipotesi di abolire il Senato del tutto, come rivela Flavio Tosi a Mattino 24. Sentiamo. Così com'è oggi il Senato non conta nulla, perché al di là che sia elettivo o non elettivo non conta assolutamente tanto nulla, tanto vale abolirlo. Il Premier Renzi mi ha anche detto che in effetti l'ipotesi di abolirlo è un'ipotesi che potrei anche considerare. Ah, Renzi le ha detto questo, quindi è vero quello che esce sui giornali, l'indiscrezione, cioè Renzi le ha detto potrei anche, ma perché non l'ha fatto subito allora? Ma perché forse subito ha pensato a una forma di mediazione con il Senato e i senatori, e adesso magari si rende conto che piuttosto che una riforma abborracciata è meglio l'abolizione. Ma secondo lei il Renzi che ha trovato, perché circola anche questa battuta che avrebbe detto lo chiudo e ci faccio un bel museo al Senato, poi lui l'ha smentita? No, è stato molto più concreto, cioè, dice anche lui, cioè, o il Senato serve a qualcosa e allora si riforma il Senato, o se ma no. Se viene fuori un Senato che non serve a nulla, tanto vale toglierlo. Ecco, queste le parole di Tosi, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Vi abbiamo detto in apertura, riferendovi della protesta di questa mattina con la chiusura per un'assemblea per parte della mattinata del Colosseo dei siti archeologici romani, che oggi in Consiglio dei Ministri approderà, come ha riferito il ministro Franceschini, anche una modifica della legge per inserire questi luoghi tra i servizi pubblici essenziali. Ma il cuore del Consiglio dei Ministri di oggi è senza dubbio il DEF, il documento di economia e finanza. Sentiamo. Il governo si appresta a rivedere al rialzo le previsioni di crescita della nostra economia nella nota di aggiornamento del DEF, che nel pomeriggio sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il PIL del 2015 sarà rivisto al rialzo allo 0,9% rispetto allo 0,7% delle stime precedenti. Il prossimo anno la nostra economia dovrebbe invece crescere fra l'1,5% e l'1,6%. Una previsione cauta ma comunque migliore rispetto all'1,4 inserito nel documento lo scorso aprile. Sempre per il 2016 il rapporto fra deficit e PIL sarà invece rivisto tra il 2,1 e il 2,2%, più basso quindi rispetto a quest'anno ma più alto delle stime precedenti. È sulla base di questi dati che il governo si appresta a mettere a punto una legge di stabilità espansiva che punta molto anche sulla riduzione delle tasse a partire da quelle sulla casa, il tutto rispettando i parametri europei ma anche facendo ricorso a tutta la flessibilità prevista da Bruxelles in materia di riforme ed investimenti, tutte questioni che saranno al centro del faccia a faccia fra il ministro dell'economia Padoan e il commissario europeo agli affari economici Moscovici, in programma in giornata. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Notizia appena battuta dalle agenzie: la presidente della commissione antimafia del Consiglio regionale della Campania è indagata dalla procura di Salerno per voto di scambio politico-elettorale di tipo mafioso. E i dettagli dopo il traffico. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, al microfono sempre Simone Spezia per il punto a metà giornata di Radio 24 sui fatti che accadono in Italia e nel mondo. Iniziamo dalla notizia alla quale vi accennavamo poco fa prima di andare in viabilità, quella appena arrivata. Monica Paolino, che è consigliere regionale di Forza Italia in Campania e presidente della commissione antimafia del Consiglio regionale, è indagata dalla procura di Salerno per voto di scambio politico-elettorale di tipo mafioso. La DIA e i carabinieri hanno perquisito a Scafati, siamo in provincia di Salerno, la casa dove lei vive con il marito, Pasquale Aliberti, che è il sindaco della città, ed è indagato anche lui. Apprendiamo tra l'altro dal sito del Mattino che questa mattina era in calendario nel comune di Scafati una conferenza stampa di presentazione della campagna anti-racket e anti-usura promossa proprio dal comune di Scafati. Maggiori dettagli su questa vicenda quando ne avremo. Le altre notizie: sono stati chiusi per gran parte della mattinata il Colosseo e i siti archeologici romani per un'assemblea sindacale con rabbia e spaesamento tra i turisti italiani e stranieri. Ci sono i primi arrivi di profughi in Slovenia, mentre la Croazia chiude le frontiere con la Serbia. Un migrante è morto fulminato nel tunnel sotto la Manica e una bimba siriana di 4 anni ha perso la vita in mare. Sulla riforma costituzionale Renzi apre la minoranza del PD, ma secondo quello che ci ha riferito a Radio 24 Flavio Tosi, il sindaco di Verona, sarebbe anche favorevole Renzi all'abolizione del Senato stesso. Infine, borse pesanti, dopo la decisione della Fed, perdono circa il 2%. Vincenzo Alesse, presidente della Commissione di Garanzia sugli Scioperi, torna ai nostri microfoni e dunque bentornato Alesse. Buongiorno, Roberto Alesse. Roberto Alesse, abbia pazienza. Sembra che il ministro Franceschini le abbia dato ascolto, cioè lei stamattina ha fatto un comunicato dicendo bisognerebbe che questi siti, i siti archeologici e i siti museali, venissero inseriti tra i servizi pubblici essenziali. Ebbene, Franceschini ha fatto un comunicato a sua volta dicendo la portiamo oggi in Consiglio dei Ministri. Guardi, sarebbe cosa buona e giusta, come si dice in gergo, se il governo oggi alle 18, quando riunisce il Consiglio dei Ministri, affrontasse una volta per tutte questa problematica. È tempo davvero di passare dalle parole ai fatti. Sono anni, non mesi, anni che l'autorità di garanzia per gli scioperi dice che la materia intera del patrimonio artistico deve essere annoverata tra i servizi pubblici essenziali di cui la legge 146 del 90, per consentire all'autorità di garanzia di controllare tutta questa materia che è considerata complessa. Ecco, proprio questo le volevo... che continui ad accadere quello che è accaduto anche oggi, che da molto tempo è attaccata. Quello che volevo capire, Alessia, è che l'inserimento di questi, dei musei, dei siti archeologici all'interno dei servizi pubblici essenziali, il che vuol dire nella sostanza equipararli al trasporto pubblico locale, al trasporto in genere. Che cosa vuol dire in pratica? Vi dà innanzitutto a voi un potere di controllo, immagino, e poi dall'altra parte comporta degli obblighi diversi anche per i sindacati? Guardi, significa che allo stato attuale noi non possiamo esercitare alcun tipo, tra virgolette, di giurisdizione nei confronti di questo universo mondo. Bisogna portare questa materia del patrimonio artistico all'interno di una serie di materie che già esistono, previste dalla legge, su cui si applica la disciplina prevista dalla medesima legge, che significa che l'autorità di garanzia controlla, potrà, se questo accadrà, insomma, se questa modifica legislativa avverrà più presto, significa che l'autorità di garanzia potrà controllare tutta questa materia dal punto di vista degli scioperi e di tutte le altre forme di lotta sindacale. Sa cosa significa? Significa che non si potranno fare agitazioni improvvise, scioperi improvvisi, se non autorizzati previamente dall'autorità di garanzia per gli scioperi. E quindi evidentemente anche con una maggiore diffusione e conoscenza delle cose, perché poi magari insomma, l'assemblea si può fare, però poi ti ritrovi i turisti che non lo sanno. Lo sciopero è un complesso infinito di regole che si applicano a determinate realtà materie. Il giudice della legittimità formale di queste regole, di questo procedimento pubblicistico, è l'autorità di garanzia per gli scioperi. Certo, mi lasci concludere dicendo che altra questione è capire perché questo settore relativo al patrimonio artistico di tutti coloro che operano all'interno di questa materia sono in costante stato di fibrillazione, perché poi bisogna capire perché queste agitazioni sindacali avvengono, perché questi scioperi avvengono. Quindi due questioni: assoggettabilità di questa materia alla legge 146, perché questa materia non è inclusa nella 146, e poi ovviamente capire perché questo settore, al pari tanti altri settori, versa in uno stato di crisi permanente, perché lo sciopero significa anche capire le ragioni in base alle quali i lavoratori ovviamente si astengono dalle prestazioni. Fermo restando, e chiudo, che sullo sfondo c'è sempre l'esigenza di tutelare i cittadini, che nella fattispecie sono i turisti. La ringrazio, grazie Roberto Alesse, presidente della Commissione di Garanzia sugli Scioperi, per essere stato con noi, e saluto Paolo Pombeni, che è uno storico ed è editorialista del Sole 24 Ore. Oggi firma un suo commento sulla trattativa in corso per la modifica della Costituzione. Buongiorno Pombeni e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, che punto di caduta vede, lo ricordiamo agli ascoltatori così in maniera molto semplice, la trattativa tra il, la maggioranza del Partito Democratico e la minoranza del Partito Democratico è sulla modalità di elezione dei nuovi senatori, che saranno 100. L'attuale formulazione, passata già a due vagli parlamentari, a due voti parlamentari, prevede che vengano eletti dai consigli regionali, mentre invece la minoranza del PD vorrebbe che fossero eletti direttamente dal popolo. Vede un punto di caduta di qualche tipo, professore? Ma se si vuole trovarlo, il punto di caduta c'è, perché c'è questa proposta del cosiddetto listino, cioè il fatto che mentre si eleggono i consigli regionali ci sia una indicazione di quelli che eventualmente potrebbero andare in questo Senato delle autonomie e sui quali si chiede il gradimento dell'elettore, quindi c'è un'elezione di fatto praticamente diretta. Vorrei ricordare che tutta questa bailamme su questa cosa scorda una verità storica elementare. La Costituente italiana, quella che faceva Repubblica, aveva previsto fino a quasi a conclusione dei suoi lavori il fatto che il Senato sarebbe stato un Senato delle regioni eletto dai consigli regionali e dai consigli comunali addirittura. E quindi adesso scoprire che questa cosa è antidemocratica, è un disastro, eccetera, eccetera, fa un po' ridere. Senta, professore, ma domanda proprio brutale, perché molti se lo stanno chiedendo, ma serve davvero il Senato, soprattutto pensato come è pensato in questa riforma costituzionale e quindi con pochissimi poteri? Ma guardi, se prendiamo un esempio concreto, la Camera dei Lord ha pochissimi poteri in Gran Bretagna, però serve perché di fatto quando riesce al meglio delle sue capacità ad esprimere interventi, riflessioni, eccetera, eccetera, poi alla fine trova un, diciamo, riscontro nell'opinione pubblica. Quindi non dobbiamo immaginare che il problema sia soltanto un problema banale del puoi dire sì o no, no? A una legge, a delle cose. C'è un problema più grande che è un problema di legittimità. Quindi una Camera, tutte le Camere vanno al di là dei loro poteri o stanno al di sotto dei loro poteri a seconda del credito che riescono a conquistare. Se il nuovo Senato, certo, questa è una scommessa, se il nuovo Senato riuscisse a essere fatto di persone sufficientemente autorevoli che si tirano dietro l'opinione pubblica, questo nuovo Senato avrebbe molto più peso di quanto non si immagini oggi leggendo puramente l'elenco delle cose che può fare. La ringrazio, quindi è un problema, come spesso accade, più di autorevolezza che di autorità. La ringrazio, grazie a Paolo Pombeni, storico ed editorialista del Sole 24 Ore. E a proposito di storia, consentiteci questo passaggio un po' particolare. Beh, c'è un viaggio storico, quello del Papa a Cuba e negli Stati Uniti, che inizia domani. Gli Stati Uniti dialogheranno con noi quando avranno un presidente nero e ci sarà un papa latinoamericano. C'è chi giura di aver sentito, erano gli anni 70, Fidel Castro pronunciare questa frase. Sta di fatto che domani Francesco, papa latinoamericano, arriverà a Cuba, incontrerà il leader Massimo per poi da Cuba, lui figlio di immigrati, simbolicamente ripercorrere la strada dei tanti latinos in cerca di un futuro migliore e raggiungere gli Stati Uniti, dove, ad aspettarlo, sarà un presidente afroamericano. Un viaggio carico di attese, speranze, implicazioni, sicuramente politico-diplomatiche. Basti pensare al ruolo di mediazione che il Vaticano ha avuto nel processo di disgelo tra L'Avana e Washington, ai richiami forti per la fine dell'embargo, ai temi dell'immigrazione e dell'inclusione, ma anche e soprattutto pastorali. Non è un mistero che proprio dagli Stati Uniti arrivino tra le più aspre critiche verso questo pontificato. A tutti Francesco chiederà innanzitutto una conversione pastorale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per sentire quello che succede sui mercati e poi dopo ritorneremo in Grecia per fare un punto sulle elezioni, ve lo ricordiamo, si vota domenica e poi parleremo di Camorra tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Le notizie principali: sono stati chiusi per gran parte della mattinata il Colosseo e i siti archeologici romani per un'assemblea sindacale. La misura è colma, dice il ministro Franceschini, che annuncia nuove misure. È stata indagata per voto di scambio la presidente della commissione antimafia della regione Campania. Primi arrivi di profughi in Slovenia, mentre la Croazia chiude le frontiere con la Serbia. Il flusso verrà diretto verso l'Ungheria, che però sta erigendo un altro muro. Sulla riforma costituzionale, Renzi apre alla minoranza del Partito Democratico. Bene, dice, ha dichiarato pochi istanti fa Bersani. Un sospetto terrorista tra Amsterdam e Parigi, evacuati i passeggeri e arrestato l'uomo. La borsa. Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, e torniamo in Grecia, torniamo a Kos dalla nostra inviata Valeria De Rosa, che tra poco in serata si sposterà su Atene perché si vota in Grecia. E anche la questione dei migranti, e Kos è uno degli snodi centrali del passaggio dei profughi, è entrato fortemente nella campagna elettorale, anche se forse al centro ci sono più le questioni economiche. Valeria, eccoci. Sì Simone, come dicevi, sicuramente il tema dell'immigrazione e dei migranti è entrato nella campagna elettorale, soprattutto ad opera di Alba Dorata, che come sappiamo è la formazione di estrema destra e ricordiamo la terza forza politica del paese dopo le elezioni dello scorso gennaio, che l'ha utilizzato ovviamente a suo favore questo tema, quindi per cavalcarlo, per contrastare i migranti e l'immigrazione in ogni modo. Dobbiamo dire che queste elezioni rispetto alle altre sono meno sentite dai greci, anche perché dal punto di vista economico poco si potrà fare, visto che il memorandum è ormai stato firmato con le istituzioni europee e che quindi il programma di austerità va messo in atto se la Grecia vuole ottenere gli 86 miliardi che ha contrattato nei prossimi tre anni. Brevemente, cosa ci dicono gli ultimi sondaggi? Gli ultimi sondaggi dicono che gli ultimi sono 5, 2 danno in vantaggio Siriza, 2 danno in vantaggio Nea Democrazia, 1 li dà in parità. Io però, conoscendo come sono andate le cose nelle scorse volte, non mi affiderei troppo ai sondaggi, considerando anche che i greci sono un popolo molto pragmatico, quindi decideranno per chi saprà ottenere qualcosa di più. E questo problema dei sondaggi vale evidentemente anche per l'Italia. Grazie alla nostra Valeria De Rosa, per il momento inviata a Kos, che poi si sposterà ad Atene. Seguiremo evidentemente anche nel fine settimana e poi lunedì l'andamento di queste elezioni greche. C'è stato un giro di vite, passiamo a parlare di Napoli contro i clan della Camorra nel centro storico, 45 provvedimenti di custodia cautelare, tutti gli arrestati sono ritenuti affiliati o vicini al clan camorristico di Mariano, storicamente attivo nella zona dei quartieri spagnoli. Di Camorra ci parla oggi Daniele Biacchessi. Solo pochi giorni fa il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha sostenuto che la Camorra è l'elemento costitutivo della società napoletana, ne è una parte integrante. Del resto, sul piano storico, tutte le mafie sono componenti organiche delle società di riferimento. Cosa Nostra in Sicilia, la Camorra in Campania, la Sacra Corona Unita in Puglia, la 'Ndrangheta in Calabria. Negarlo sarebbe dunque chiudere gli occhi all'evidenza. Ma il ragionamento va oltre. Negli anni, spesso nell'indifferenza generale, le mafie hanno trasferito al nord una parte degli interessi dei loro traffici e capitali, riproponendo identiche dinamiche del territorio di provenienza, tanto che non c'è differenza su come opera la Camorra a Napoli e nel quartiere milanese di Quarto Giaro, come non esistono discrepanze tra le 'ndrine di Locri e quelle magari soltanto più raffinate di Buccinasco, Corsico e Trezzano sul Naviglio, alle porte del capoluogo lombardo. Ecco perché diventa stucchevole, se non obsoleta, la polemica di questi giorni sulla Camorra, che starebbe, secondo alcuni, nel DNA dei napoletani. L'escalation di violenza che travolge Napoli in queste settimane vuole solo dire che ci sono nuovi soggetti criminali che stanno tentando di soppiantare le vecchie gerarchie. In sostanza c'è una nuova Camorra composta da giovani, alcuni giovanissimi, che forse si sono stancati di fare le comparse comprimari del piccolo spaccio, ma puntano a diventare i nuovi padroni di Napoli. E l'operazione dei carabinieri di questa mattina dimostra invece che una parte maggioritaria di Napoli sa reagire al potere criminale, non ne diviene succube oggi nei vicoli dei quartieri spagnoli, come ieri contro i casalesi e ancora prima contro Raffaele Cuttolo. A chiudere una bella storia, la storia di una donna, Silvia Massarelli, una delle pochissime direttrici d'orchestra in attività in Italia. Dirigerà questa sera l'Orchestra Filarmonica di Torino per Mito Classica e ad aprile condurrà l'Orchestra del Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi. Si chiama Silvia Massarelli ed è stata la prima e tuttora è l'unica donna al mondo a vincere il prestigioso Grand Prix per la direzione d'orchestra al concorso internazionale di Besançon in Francia. In assoluto è poi una delle pochissime donne direttore d'orchestra nel panorama musicale, in particolare italiano, in un ruolo per tradizione occupato per lo più dagli uomini. Silvia Massarelli ha studiato al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma con Bruno Aprea e al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi, dove si è laureata col massimo dei voti e ha avuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale. Apprezzata dalla critica per il suo grande talento, è però più seguita all'estero che in Italia. In Italia la tendenza a prediligere i propri talenti non c'è. Quando si parla di fughe di cervelli, fughe di talenti, eccetera, in fondo sono anche giustificate, perché nel nostro paese le cose si raggiungono con certa difficoltà e forse in altri paesi è più semplice. Questo secondo me è un problema che abbiamo proprio nel nostro DNA, nel senso che se io invece di chiamarmi Massarelli Massarellowski, ecco, secondo me già andava meglio la situazione. In quanto straniera avrei sicuramente preso parte a tantissime iniziative italiane. Adriana Fracchia, Radio 24 e Sole 24 Ore. Il traffico, Mario Platero, e poi ci ritroviamo alla fine per i saluti.